Bella raga, io sono Erix e benvenuti in questo nuovo video come faccio sempre. Vabbè, comunque questo qui è il nostro primo blog e quindi volevo parlare dei vostri commenti che spesso mi fate. Vabbè, iniziamo. Il primo commento di oggi è... Retto che gli ho già risposto, ho scritto: estate, sarò sincero, il tuo tè è buono. Perché è vero, io mi cingozzo con l'estate. Comunque si scrive tè, non de, perché lui ha scritto de, però ora si è corretto. Quindi passiamo al prossimo. Questo qui è un commento che mi ha fatto ridere, eppure molto. Snoop Dogg, tutti lo conosceranno. Mi scrive: ti amo Erix. Allora, ragioniamo. Snoop Dogg che mi scrive: ti amo Erix. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Comunque, ti dovrei dire grazie, anche se hai fatto un commento non strano, ma qualcosa di più. Vabbè, proseguiamo. I prossimi commenti sono tre. Ehi, no, perché avevo visto un attimo che era un po' storta la webcam. Comunque, sono tre questi commenti. C'è quello di Daisy Channel che mi scrive: ciao, sei bravissimo, grazie anche a te. Tra l'altro, bel nome del canale, Daisy Channel. Alice Acciari che mi scrive: grandissimo, con due faccine che piangono, mi sembra, ma da qui non si vede bene. Ah no, che ridono con le lacrime. Microfono. E non ho un nome che scrive: ma che cazzo? No, vabbè. Grazie. Comunque, non ho un nome e ha commentato sulla parodia dei Teletubbies. Non ho un nome, se non hai un nome come faccio a salutarti? Rock Folle, un mio grande amico che tra l'altro ha 100 iscritti più di me. No, sto scherzando. Cioè, allora, io sono 50. Mannaggia la matematica. Mi scrive: ciao. Ciao anche a te, caro amico. Quando ci vediamo in un video, collaboriamo. Rex the Rainbow che mi scrive: ah. È importante accarezzo sotto un mio video, quindi vabbè, lo saluto perché c'ho voglia. Ciao. E vabbè, niente. Oire 2004 che nel mio ultimo video di Clash Royale mi scrive: non si scrive Clash Royale. Beh, giustamente c'ha ragione perché non è che siamo nella classe di Clash Royale. Quindi ciao anche a te, Oired 2004. 2004, sì. E va bene, proseguiamo al prossimo commento. Proseguiamo. Di nuovo Alice Ciarri che ci scrive: Fra, salutami please, difatti il mio nome è Francesco, ma per chi non lo sapesse, il mio nome l'ho detto in un video che mi era venuto malemente male, quindi l'ho cancellato. Però in quel video dicevo che mi chiamavo Fra, quindi in quelle 7 visualizzazioni che l'hanno visto, 7 persone che l'hanno visto, sanno il mio nome. Vabbè, comunque mi chiamo Francesco. Ciao! Il commento... Basta tremare, il commento più bello di questo video è di Dio Onnipotente. Ok, che mi scrive: chi vuole essere benedito? Allora, prima si dice benedetto, ricordati. E vabbè, se non è una cosa illegale. Quindi ragazzi, concludo con l'episodio, spero vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale, anche perché mi sono mo divertito molto a leggere i commenti, perché seriamente siete una cosa fantastica, cioè... chi vuole essere benedire, cioè no, vabbè, quello lì mi ha fatto troppo ridere, che tra l'altro oggi c'ho un ciuffo maligno, questo. Harry Potter. Oh, che caldo. Comunque c'era un altro fan che mi ha scritto nei commenti, ma ora l'ha cancellato, non so perché, non mi ricordo il nome. Mi dice che nell'episodio di Happy Wheels, con la cesta verde a fianco a me, ora non me lo faccio vedere, aveva visto il colore di un Nerf e poi mi ha chiesto: ma hai Nerf tu? Uno! Concludo qui l'episodio, spero vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate un like, ciao raga, al prossimo video! Sì, al prossimo video!